ha la sua barba bianca, chissà che cosa lui sentiva. C'era un bimbo, lo guardava, curioso stava lì a sentire bussare il vecchio, ed aveva nei grandi occhi l'avvenire. Pensando al vecchio in gioventù, qual era il suo mestiere, quale virtù il cavaliere. Solo un po' di fantasia, basto al bimbo per vedere una fiaba in cui ci sia un errante cavaliere. Ma che fortuna averlo qui, si può anche toccare, e poi sentì, si può amare. Solo il vecchio e nessuno lo aspettava, è passato un colpo d'occhio e il bimbo lo svegliava. Il vecchio disse: tu chi sei? Un amico, non temere, io sarò qui tutte le sere. Cominciò così tra i due un rapporto di dolcezza, il vecchio con le fiabe sue e il bimbo tanta tenerezza.